si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24. Come sapete si può intervenire in diretta per raccontare le proprie buone notizie, per commentare gli spunti che ogni settimana vi proponiamo, e aspettiamo anche le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook. Mi raccomando, si può fare trattino Radio 24, seguiteci pure su Twitter, si può fare 24. Prima di tutto, prima di partire, che abbiamo un ospite importante che ci aspetta e che poi ci deve lasciare presto, una notizia di servizio importante riguarda il concorso di Si può fare. La scorsa settimana abbiamo premiato la categoria imprese, e allora vi voglio ricordare che oltre ad avere premiato Daniela Ducato di Edilana, una menzione va anche al secondo arrivato, IAC Italia, l'associazione che è anche un comitato promotore per la prima banca in Italia senza interessi, li avevamo ospitati il 20 maggio del 2012, e anche l'associazione Onlus Soggiorno Sereno Sandro Gabbani di Roma, che danno ospitalità gratuita ai familiari dei parenti che vanno negli ospedali romani. Li avevamo ospitati il 20 ottobre del 2012. Più avanti, al segnale convenzionale, che adesso vi faccio sentire, eccolo qua. Quando sentirete questo segnale più avanti, verso le 12.30, è il momento di mandare l'SMS al 349-238-6666 con l'indirizzo email. Il testo è solo l'indirizzo email che avete utilizzato per registrarvi sul sito per votare il concorso. Ecco, a quel momento lì ci mandate il vostro SMS e i più veloci vincono il premio di oggi, che è sempre un soggiorno sostenibile offerto da EquoTube. Sono stato abbastanza confuso? Chiedo in regia? Sì, penso di sì. Abbiamo spiegato tutto, è già la seconda volta che usiamo questo meccanismo. La scorsa settimana ha funzionato, voglio anche dire a chi ha inviato gli SMS la scorsa settimana di star tranquillo, che abbiamo già registrato il vincitore, Poi le comunicazioni piano piano partiranno. Adesso cominciamo con la prima storia che ci porta a Napoli. Ha rischiato di rimanere con le luci spente la palestra di Gianni Maddaloni a Scampia, niente poco di meno, la palestra che dove si è allenato il campione olimpionico di Sydney, il figlio di Gianni Pino, grandissimo judoka, e questo è accaduto qualche giorno fa. Poi per fortuna si è fatto vivo un benefattore che ha pagato la bolletta, perché era tutto a rischio, insomma una grande palestra. Buongiorno Gianni Maddaloni. Buongiorno, buongiorno, ringrazio della vostra visibilità. Che date l'opportunità di far conoscere la verità. Questo imprenditore Roberto Fogliame, sì, ha dato 2000 euro per poter pagare le bollette in corrente. E ringraziamolo, certo. Sì, ringraziamo questo imprenditore napoletano che ha dimostrato un grande cuore. Abbiamo pagato le bollette in corrente, luce, acqua e gas, e questo, diciamo, ha dato un inizio a una grande sussistenza della gente. Addirittura ci sono dei bonifici di 80 euro, di 20 euro, di ragazzi di Roma e ragazzi anche dalla Germania, quindi, che stanno versando sul nostro IBAN dei piccoli bonifici, anche se piccoli, ma sono grandi di cuore. Noi ringraziamo, perché vuol dire che l'Italia è fatta di brava gente che tiene a sostegno queste iniziative che noi facciamo, sì, sul quartiere di Scampia. Tra l'altro, adesso magari lo mettiamo anche noi sulla pagina Facebook l'IBAN, così se qualcuno fosse interessato, qualche ascoltatore di Radio 24. Sì, gli amici della Star Judo Club sul Facebook, ci siamo e c'è tutto, c'è tutta un'altra storia. Perfetto. Tra l'altro io so che lei ha pochissimo tempo, perché suo figlio sta per partecipare, sì, ad una gara. Dove siete, a Malta? Siamo a Malta a rappresentare l'Italia con, sì, Marco Maddaloni, che sogna di arrivare a Rio, e Chianese Antonio. Quindi noi non finiamo di sfornare campioni. Esatto, siamo stati a Sydney, abbiamo vinto l'oro, siamo stati a Pechino, abbiamo mandato 3 ragazzi a Londra e sogniamo di andare a Rio. Ma la medaglia più grande è quella del sociale, cioè i ragazzi che noi aiutiamo dalla strada, ecco, ragazzi, diciamo, che non vogliono più delinquere. Gianni, chiaro, diciamo anche una cosa, no? Che voi fate parte anche di un progetto, noi avevamo dato la notizia qualche settimana fa, se non ho visto male, 108 ragazzi, sì, che vengono da voi si possono allenare gratis, vengono dalle periferie napoletane. Vengono dai punti più da alto rischio della criminalità, sì, sono 36 ragazzi per ogni punto, sono 3 punti nevralgici. di Scampia e sono 108. Quindi questi ragazzi vengono tolti dalla strada in modo completamente gratuito. Che dire, aiutateci, perché praticamente questo punto non può sparire. Anzi, ho un appuntamento con il presidente Malagò il 22 venerdì prossimo, perché è un uomo speciale, presidente del CONI, certo. Mi darà una mano. Senta, perché è una persona speciale. Qual è il vostro segreto per andare avanti con questa grande forza e superare tutte le difficoltà? Tra l'altro è incredibile che non ci siano, insomma, voglio dire, anche sponsor che continuità diano aiuti e sostegni anche delle istituzioni, questo va detto. Ma la nostra forza è non arrenderci mai la dignità, schiena dritta e guardare sempre negli occhi le persone. Che dire, noi credo che comunque diamo uno spunto a tanta gente, tanta brava gente come noi, che anche in un momento di crisi non si arrende. Questo è importante. Vorrei approfittare della vostra radio per dare un impulso e ringraziare Dio che ha dato a noi italiani e tutto il mondo un papa come Francesco, perché lo sento a pelle. A voi è piaciuto? Che è una persona che ci dà, il Papa Francesco ci dà tanta forza e sicuramente porterà tanto bene a questa umanità, è pieno di umiltà e questo è una cosa che mi fa molto molto bene, mi inorgoglisce e mi dà molta più spinta a Quindi, fare ciò che faccio. C'è sintonia. C'è sintonia tra voi a Scampia, la palestra Maddaloni e Papa Francesco. Papa Francesco, perché il messaggio vero di Gesù è l'umiltà e bisogna dirlo a tutto il mondo. Senta, adesso ci salutiamo perché so che deve stare dietro al figlio che tra poco. Una cosa sola, Gianni, una cosa sola. Sì. Ci conferma che la Rai so che su questo non può parlare, ma solo la conferma, sta facendo la fiction su di voi? Su loro di Scampia, questo posso dire. Peppe Fiorello è un grande uomo che farà vedere la vera persona di Gianni Maddaloni, ciò che non posso fare io, che sono un piccolo uomo. Grazie, arrivederci. Grazie per essere stato con noi, e doveva correre veramente perché tra pochi secondi il figlio è in pedana. E questa era la storia, la palestra storica, avete sentito, chi la conosceva già questa storia l'avrà rinfrescata, gli altri insomma avranno imparato qualcosa di nuovo, che rischiava di chiudere perché non c'erano i soldi per pagare la bolletta dell'Enel. Adesso questa cosa è scongiurata almeno fino a giugno, però insomma se potete date una mano. Traffico, torniamo tra un attimo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24. Tra poco cominceremo anche a chiedervi di intervenire, a sentire le vostre chiamate con un occhio in Parlamento, perché insomma oggi potrebbe già essere giornata decisiva per la votazione del Presidente di Camera e Senato. E a proposito del nuovo Parlamento, c'è una buona notizia, è questa qua. Sono entrati 276 complessivamente parlamentari col braccialettino bianco, quello con scritto i primi 100 giorni bisogna cambiare la legge anticorruzione, un'iniziativa di Libera e del gruppo Abele, alla quale appunto hanno aderito 276 neoparlamentari che si sono impegnati entro i primi 100 giorni a fare questa legge qua, scontro la corruzione. Riparte il futuro, si chiamava così questa campagna, insomma è andata abbastanza bene perché quasi 300 parlamentari non sono pochi, e loro dicono, il gruppo Abele e Libera, potrebbe essere la lotta alla corruzione il primo tema di convergenza tra gli schieramenti che in questo momento si guardano, si studiano, ma sembrano ancora piuttosto lontani gli uni dagli altri. Voglio darvi anche altre due o tre notizie e segnalazioni. La prima viene da Roma, per chi deve iscrivere i figli agli asili c'è una novità, uno snellimento burocratico abbastanza significativo da parte dell'assessore De Palo, che segnala: da oggi potete andare al CAF, al sindacato, dove già si va per farci fare l'ISEE, cioè l'estratto economico per vedere in quale fascia di reddito siamo, e tutto lì si può compilare la domanda per l'iscrizione all'asilo del bimbo, e quindi non bisogna andare in altri uffici. Una buona iniziativa a Roma. Poi c'è un concorso di idee a Bergamo per ristrutturare l'area di l'ex Mazzoleni nel cuore di Seriate, un bando per ristrutturare 32.000 metri quadrati. Cari amici architetti, fatevi avanti perché potrebbe essere un'occasione anche per voi. Questa invece è sempre a Bergamo, la voglio dare perché intanto fa bene, belle persone, bei gesti. Uno studente ha ritrovato 4.200 euro in un portafoglio, stava andando a lezione, ha deviato il percorso, è andato in questura, ha lasciato lì e poi è andato a fare i suoi studi. Questo ragazzo di 19 anni Giovanne di Zogno in provincia di Bergamo. Bravo, ce ne fossero. Adesso sbirciamo dentro il Parlamento, ma con un punto di vista particolare, quello di un ex parlamentare pentito. C'è stato un qui pro quo musicale, no? Perché questa musica in realtà non serve. Noi volevamo introdurre con Little Tony, Mi pento. Giancarlo Mazzucca, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Te la ricordi la canzone di Little Tony nel 68, Mi pento? Non è una delle più famose, però insomma mi sembrava adatta per questa storia qua. Perché Giancarlo Mazzucca, collega, direttore del Giorno adesso, ha alle spalle una legislatura da parlamentare nelle fila del PDL, parlamentare come vogliamo dire, ha scritto un libro, Compagni di Camera, per raccontare il reality della legislatura in una maniera, con una bella dose di delusione. Devo dire una buona dose di delusione. Comunque nel momento del cambio, ieri è stato il primo giorno di scuola dei nuovi parlamentari, sì. Un po' di nostalgia di Roma e del mio banco occupato da un grillino un pochettino c'è stato. Questo magari lo capisco, però ti faccio passare subito la nostalgia, perché ti leggo quando tu scrivi: sono stato inghiottito dalla palude parlamentare, capace di annientare quasi tutto secondo i meccanismi infernali dei veti, dei controveti nei passaggi da una commissione all'altra, per non parlare del tiro alla fune tra Camera e Senato. Quindi insomma, poi ci sono altri passaggi nei quali insomma dici sostanzialmente che sto Parlamento, no, a volte sembra quasi inutile. Sì, no, più che inutile, potrebbe essere utilizzato meglio. Si parla tanto dei costi della casta, del fatto che i deputati sono numerosi, sì, sono numerosi, così come i senatori, bisognerebbe dimezzare il numero dei parlamentari, ma il vero problema, da una parte, è il meccanismo infernale fra Camera e Senato. Mi è capitato molte volte in questi 5 anni di legislatura di essere relatore di leggi che poi sono arrivate al Senato, approvate tranquillamente alla Camera, sono arrivate al Senato e sono state insabbiate senza motivi plausibili, sparite in qualche sotterraneo di Palazzo Madama o viceversa, leggi che arrivano sotterraneo Senato, è bellissimo, che arrivano alla Camera e magari anche nel soffitto, non lo so. Comunque, quindi io credo che sia importante cercare di arrivare a una sola Camera legislativa e cercare di utilizzare i deputati per quello che sanno fare. Io avevo cominciato questa avventura parlamentare con le migliori intenzioni, avevo detto che era giusto rimboccarsi le maniche, che non bastava scrivere articoli contro la casta, contro la politica, se uno era chiamato doveva cercare in prima persona di impegnarsi. Purtroppo non mi è stato possibile, ho avuto la fortuna di uscire bene, di ritornare a casa, nel senso che sono tornato come direttore del Giorno e quindi sono contento, però questi 5 anni mi hanno insegnato molto e ho cercato di riportare questi insegnamenti in questo libro. Io leggo perché in questo momento può essere interessante, no? Si sentono, insomma, poi ogni campagna elettorale si sentono nomi importanti, altisonanti. Tu scrivi: ho conosciuto molti elementi a Montecitorio di destra, di centro, di sinistra, del mondo civile, generali, prefetti, imprenditori, presidenti di enti, associazioni, avvocati, notai, medici, professionisti universitari, giornalisti, che sono stati poi abbandonati al loro destino dopo la campagna elettorale. Finito l'effetto urne, i nomi altisonanti rientrano nel tran tran quotidiano. Adesso che siamo agli inizi, tu dicevi un po' di nostalgia per chi ti ha fregato il posto in Parlamento, quello che ti vorrei chiedere è: visto l'ondata grillino, visto un alto tasso di rinnovamento del Parlamento, gente nuova, giovani, donne, si dice che comunque questo è un Parlamento, anche se un po' caotico al momento, che però avrebbe forse delle potenzialità anche per risolvere i problemi che tu hai sollevato con questo libro, Compagni di Camera, Giancarlo. Che ne pensi? Sì. Può essere la volta buona o no? Probabilmente ci potrebbero essere potenzialità, ma il problema è che io ho la sensazione che questa legislatura sia molto breve. Bene o male, noi comunque 5 anni l'abbiamo fatti. Ora, con questa situazione politica, con questo impasse, dicevi prima tu che ci sono appunto i parlamentari che si batteranno nei primi 100 giorni contro la corruzione, eccetera. Ma io ho miei dubbi che si possa andare avanti per 100 giorni in questa situazione. Quindi io penso che se non a giugno, comunque in ottobre, ci siano altre elezioni. Quindi non credo che questa legislatura possa essere la legislatura che serve a tutti per cambiare pagina. Però io credo che occorra cambiare pagina, e in fin dei conti anche in un certo senso anche l'arrivo dei grillini può essere positivo, perché ha comunque tolto metà della vecchia nomenclatura, quindi in questo senso può essere anche positivo. Comunque una cosa è certa, l'unica cosa che ti volevo aggiungere è che nessuno mi ha cacciato, nel senso che sono stato io a rinunciare, ho deciso di non ricandidarmi e di tornare al mio mestiere, al mio vecchio mestiere. Almeno il giornalista può ogni giorno, soprattutto se uno ha la fortuna di essere direttore di un giornale, di vedere il giorno dopo il proprio prodotto uscire nelle edicole, quindi vedi il proprio prodotto, il proprio lavoro, che può essere positivo e può essere misurato anche poi dal gradimento, certo, le persone. Invece il Parlamento, l'output non si sa, non si sa qual è. Il bilancio di 5 anni è molto modesto, nel senso che ho provato, sono stato relatore di qualche legge in Commissione Cultura e anche sono stato nella vigilanza RAI, ma obiettivamente i risultati per 5 anni sono molto modesti, e questo è veramente lo spreco. Quale potrebbe essere, Giancarlo Mazzucca, il numero giusto di parlamentari? Perché mi sembra chiaro che anche da questa tua esperienza che insomma, ce ne sono troppi di parlamentari, tanto che lavoro sprecato, tu racconti di un discorso che è caduto nel vuoto a un certo punto perché non c'era più tempo, bisognava correre, quindi che senso ha mandare tutta questa gente in Parlamento quando poi si intasano solo i lavori e oltre alle riforme che andranno fatte, sicuramente andranno ridotti i parlamentari. Quale potrebbe essere un numero adatto secondo ma te? Ma dimezzare, però più che dimezzare il numero complessivo, io direi di spostare l'attenzione su una Camera solo legislativa. Il Senato può, quindi deve essere una riforma costituzionale, il Senato può essere appunto la Camera delle Regioni, ma avere tutta un'altra funzione. In questo momento mi sembra una doppione, il bicameralismo perfetto, che finisce per frenare. Io spero che ci sia nel prossimamente una legislatura in grado di portare avanti questa riforma costituzionale, anche perché poi per spezzare una lancia anche a favore del Parlamento, noi continuiamo a concentrarci sui problemi del Parlamento, ed è giusto, io ho fatto questa esperienza parlamentare, però i grandi problemi non sono in Parlamento, ma sono anche a livello regionale, le varie regioni, le burocrazie delle regioni, per non parlare delle province, sono 30 anni, 40 anni che si parla di abolizione delle province. Però lo deve fare il Parlamento, poi ci sono delle resistenze. Una delle cose che ci tenevo di più nell'ultimo scorcio della mia legislatura è arrivare alla provincia unica di Romagna. Sono romagnolo, quindi ci tenevo molto a arrivare a una provincia unica di Romagna. Sembrava cosa fatta, ma la dimissione del governo Monti ha finito per... Questa è una delle cose, noi l'abbiamo detto da questo programma, il governo Monti criticato da tanti, da tutti, forse anche da troppi, però qualcosina per esempio sulle province stava facendo. Fosse durato qualche mese in più, forse avremmo potuto risparmiare qualcosa, come ci ricordava anche Giancarlo Mazzucca, sulle province. Grazie intanto per essere stato con noi, compagni di Camera, lo trovate in libreria, Giancarlo Mazzucca, direttore del Giorno. Adesso staremo a vedere se secondo te votano oggi? Oggi penso di sì. Ci siamo. Ma con questi nomi, Boldrini e Grasso, o con altre alchimie secondo io te? Io penso questi due nomi, che sono due nomi nuovi. Buoni. Sì, anche buoni. Comunque l'importante è avere una fumata bianca anche in Parlamento. Non solo e staremo a vedere. Grazie. A presto, arrivederci. Buona giornata. Adesso risentiamo Tullio d'Episcopo. Andamento lento, questa melodia. Risonanze nere senza ipocrisia. Andare un po' più su e vieni con me. E vieni con me. Alleluia, alleluia, alleluia, in appesa a me. Show me the way. Show me the way. Di fronte all'andamento lento della giustizia, da Lodi arriva un esperimento che viene presentato come unico in Italia. È stata firmata una convenzione per far lavorare gli ex agenti, gli ex carabinieri, gli ex poliziotti della Guardia di Finanza e quant'altro per sbrigare alcune mansioni amministrative, credo, del Tribunale di Lodi, così da, insomma, da dare una mano. Volontariato, e siamo messi così evidentemente. Salutiamo il presidente della provincia di Lodi, Pietro Foroni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Prima di tutto, cosa gli fate fare a questi ex agenti? Allora, innanzitutto si tratta, è un'iniziativa congiunta, soprattutto che nasce dall'iniziativa della Procura della Repubblica, sì, di Lodi, e con dove ha chiesto, tra virgolette, una partnership con la provincia, e prende atto di una situazione comune purtroppo alla gran parte degli uffici giudiziari italiani, di una carenza di organico. E quando si parla di carenza di organico non si parla solo di carenza di organico a livello di magistrati, siano essi giudicanti o pubblici ministeri o nel caso della giustizia civile, ma si tratta anche delle funzioni di cancelleria o di polizia giudiziaria per quanto riguarda la Procura della Repubblica. Quindi funzioni di cancelleria che sono importanti, no? Perché sono fondamentali, perché altrimenti i fascicoli si arenano negli uffici. Cioè i magistrati devono avere il lavoro un po' pronto, perché se devono preoccuparsi anche, io ho avuto a che fare una volta, insomma, con i timbri, le notifiche, le diventa ingestibile. Quindi e questo. Poi, a livello di codice, di procedura penale, di procedura civile, ci sono situazioni, competenze ben specifiche, in capo ai cancellieri, non certamente alla magistratura. Quanti ex agenti siete riusciti a coinvolgere? Il dato preciso non l'abbiamo ancora, ma si tratta certamente oltre la decina, quindicina. Noi con questo protocollo che abbiamo sottoscritto, sì, come provincia di Lodi, andiamo a coprire le spese di assicurazione per quanto riguarda il discorso appunto di queste persone che sono agenti in pensione, che spontaneamente, volontariamente vogliono appunto continuare a dare una mano, sì, ai loro uffici. Vorrei dire una cosa, perché immagino anche qualche ascoltatore che storce il naso e dice: ma sì, adesso quei volontari con i pensionati. Però non sottovalutiamo anche l'importanza di cose come queste, perché certo non si risolvono i problemi della giustizia, però intanto si dà una mano e poi si coinvolgono risorse umane di persone che magari sono in pensione ma possono dare ancora molto, quindi però a costo zero sostanzialmente la provincia paga solo l'assicurazione. Ma voglio dire, è una cosa virtuosa, insomma, andrebbe fatta anche altrove. Le persone non è che hanno una pistola puntata alla tempia per venire, scelgono loro, quindi significa anche una certa passione per quel tipo di e poi attività. Non credo che tolgano lavoro, perché questa potrebbe essere l'altra obiezione che qualcuno fa ad altri, perché non ci sono per il momento, perché sono tutti bloccati. Però diciamo la verità, Sottolineare una cosa, che questo è un aspetto che da un punto di vista economico è tutto sommato modesto, ma come provincia di Lodi già noi ogni anno paghiamo 10 casse integrati come lavori di pubblica utilità in tribunale. Cioè paghiamo la differenza tra l'indennità di cassa integrazione rispetto a quello che sarebbe stato lo stipendio prima, lo stipendio pieno. Si tratta di persone molto spesso espulse dall'attività lavorativa di tipo privato. Suppliamo, e questo dobbiamo dire, alle carenze di uno Stato centrale, perché l'amministrazione della giustizia non compete certamente né agli enti locali comunali, certo, né alle amministrazioni provinciali, suppliamo con le nostre risorse, nonostante i tagli dello Stato centrale, per un bene primario che è appunto la giustizia, ecco, che è civile ma è anche penale. Io a questo proposito vorrei farle una domanda, lei è della Lega, no? Sì. Ex alleato, sì, o alleato comunque in alcune regioni del PDL. Abbiamo avuto questa settimana nella quale i parlamentari del PDL sono andati davanti al Palazzo di Giustizia, hanno sollevato questa questione sulla, diciamo, agibilità, no, del leader Berlusconi, a parte dal punto di vista politico, però questa cosa dal punto di vista della giustizia viene agitata e noi abbiamo passato anni a parlare di questo tema della giustizia. Lei però giustamente ci dice: il problema della giustizia è la scarsità di personale amministrativo, quindi quando si fanno quelle operazioni, secondo me personalmente anche sbagliate, come andare davanti al Palazzo di Giustizia ai parlamentari del PDL, in realtà si agita uno spettro di una cosa che con la giustizia poi non c'entra nulla, con la giustizia del cittadino. È d'accordo lei, che tra l'altro è anche avvocato, credo? Sì, io sono avvocato, per cui sui temi della giustizia, facendo anche diritto penale, sono abbastanza, li sento, sono molto sensibile. Io non entro sulle vicende, eccetera, sulle proteste che ci sono state. Io ho sempre avuto grandissimo e massimo rispetto nei confronti di tutta la magistratura. È stata un'iniziativa politica da parte di una parte politica che non è che non è la mia. Io però ripeto e sottolineo una cosa, che quando si parla di giustizia, sia civile che penale, si parla di beni primari di ogni democrazia. Se non funziona la giustizia, e se non funziona anche per i rallentamenti che ci sono nella macchina burocratica, e molto spesso lo sottolineo per carenza di personale, perché quando si vanno in certi tribunali tutte le mattine, e lo dico da avvocato di provincia, e si vedono le code, le fila che ci sono nelle cancellerie, non è un problema di personale che non lavora, ma è un problema di carenza di personale, e tutto quello che serve per affrontare questa situazione, per aiutare questa situazione, lo facciamo. Ben venga, e anzi grazie per averlo fatto, grazie anzi per, anche con questa iniziativa, per averci fatto capire di nuovo qual è la direzione di marcia per risolvere almeno una parte, forse quella più consistente, dei problemi della giustizia, cioè lavorare sul funzionamento, sull'amministrazione, sulla quantità di personale, sulle risorse. Sembra banale, ma non lo è, e voi da Lodi, con un'iniziativa originale, secondo me lo avete dimostrato. Pietro Foroni, presidente della provincia, grazie intanto. Grazie, buona giornata. Buon lavoro a tutti, arrivederci, buona giornata. 800 24 00 24, se volete commentare alcune di queste notizie che abbiamo sentito in apertura, tra poco, dopo la pausa, ci sarà il segnale convenzionale e si passerà alla premiazione anche degli ascoltatori che hanno votato il concorso di Si può fare, quindi preparate il vostro SMS con la mail con cui vi siete registrati al sito, perché tra poco lo dovete inviare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati in diretta. Oggi abbiamo un po' rivoluzionato la scaletta perché Gianni Maddaloni della palestra di Scampia aveva pochi minuti da dedicarci per raccontarci la storia di come la sua palestra si è salvata in corner grazie a un benefattore a Scampia. Questa è una bellissima storia, la Rai ci farà una fiction a settembre. Però voglio rilanciare il numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Vi chiedo oggi, è questa un'occasione da non perdere di questo Parlamento caotico, sì, ma molto rinnovato, con tanti giovani, tante donne, tanti grillini che portano istanze di riforma della politica. Ne abbiamo parlato con Giancarlo Mazzucca, che ha alle spalle una legislatura di delusioni e di amarezze. Ce la possiamo fare questa volta? 800 24 00 24. Poi avete sentito anche la storia di Lodi, il tribunale di Lodi che chiama in causa gli ex agenti in pensione per fargli sbrigare delle mansioni amministrative. Nella settimana in cui il PDL ha manifestato davanti al Palazzo di Giustizia, vi chiedo, è questa la strada per riformare la giustizia? Cioè più personale, più gente, più risorse, perché sennò la giustizia non sarà mai meno lenta di com'è. 800 24 00 24. Adesso tra poco armate i vostri SMS con le mail di registrazione al sito per il concorso che Si può fare, perché tra poco è il vostro momento. Andiamo alla premiazione della categoria, la seconda su quattro persone, ospitiamo il vincitore o la vincitrice, vite ordinarie di persone straordinarie. The best nella categoria persone, vite ordinarie di persone straordinarie è Davide Bortoluzzi, 25 anni, pastore della provincia di Belluno. Buongiorno, lo ritroviamo. Buongiorno. Tra poco lo sentiamo anche, col che parte anche il segnale convenzionale. Via con gli SMS. Qualcosa sta arrivando, il meccanismo è un po' complicato, però SMS con le mail con cui vi siete registrati al sito stanno arrivando, quindi possiamo dire che poi andremo a verificare se questa email è veramente l'avete usata per registrarvi sul sito, perché se no naturalmente decade tutta la logica del concorso. Davide, dove sei adesso? Sono con le pecore. Adesso sono entrato in macchina perché fuori c'è vento, sennò non si sente niente, comunque è pascolo. Grazie per aver fatto questa, per aver deviato rispetto al percorso normale della tua giornata dietro alle pecore. Che effetto ti fa? Cioè, noi abbiamo proposto varie storie, no? La tua è stata la più votata. Avevamo scritto nel lancio della puntata Pastori 2.0, perché insomma sei un ragazzo giovane, fai una vita anche moderna per certi aspetti, però hai deciso di dedicarti a portare avanti questa attività di famiglia, no? Perché già dai tuoi che avevate questo allevamento, se non ricordo male. No, no, sono partito io. Sei partito tu? Ah, ecco, sì, quindi sì, ancora sì. A maggior ragione. Hai deciso a un certo punto di partire con questa cosa. Quando? Beh, ho sempre avuto passione fin da bambino e mi ha sempre attirata la vita nomade di pastori. E poi, appena ho potuto un po' arrangiarmi, diciamo, appena dopo le medie ho cominciato a prendere i primi animali che riuscivo un po' a gestire. E poi, finite le superiori, ho iniziato questo lavoro, ecco. Così, insomma, e come ti sei trovato? È stato come te l'aspettavi? Più difficile? Meglio? Ma è stato più difficile. Più difficile non tanto per il punto di vista del lavoro, perché bene o male il lavoro uno sì, lo conosce, fa, ma per tutto quello che ci sta dietro. Non pensavo che anche nell'agricoltura ci fossero così tanti vincoli, tante carte, tanti documenti da presentare per ogni minima cosa che fai. Già, perché questo è un aspetto, no? Uno si immagina, faccio l'agricoltore, faccio l'allevatore, mi faccio la mia fattoria o sto lì all'aria aperta, non devo rendere conto a nessuno, alla fine del mese vendo i miei prodotti e esatto, basta. Esatto. E invece poi... Non è proprio così. Non è proprio così, sarebbe meglio no. Che fosse così. Invece io lo so perché ho anche degli amici, ho un amico in Toscana che ha un terreno e lo so che in provincia, cos'è? Provincia di Pisa o di Livorno, che deve adempiere i recinti, il catasto, insomma un sacco di cose, no, burocratiche. Si potrebbe semplificare un po', saresti più contento, sì. Si potrebbe semplificare secondo me anche magari... non so, avere degli altri orari per esempio, perché con gli animali non è che poi andare in ufficio come gli altri, sì. Esatto, quindi comunque sono robe che con un po' di pazienza si supera, ecco. Ecco, ma io ti voglio chiedere anche questo, dicevo, insomma, gli ascoltatori che hanno votato per te, poi adesso diciamo anche il secondo e il terzo classificato, è giusto dirlo, anzi lo dico subito, così diciamo rendiamo onore anche a chi si è classificato al secondo posto. Al secondo posto nonno Carlo, che insegna l'arte del riciclo nelle scuole, l'avevamo sentito l'11 novembre del 2012, lui va in giro per le scuole a insegnare come si fa a riciclare un po' tutto, insomma, no? Per farci dei giocattoli, degli abbellimenti, delle cose... E ai bambini piace molto questa storia, è piaciuta anche agli ascoltatori che l'hanno votato come secondo. Terzo è arrivato il rettore di Genova, De Ferrari, che aveva fatto una campagna contro l'assenteismo dei professori universitari, l'avevamo ospitato il 4 marzo del 2012. Dico le date perché chi se lo vuole andare a risentire va sul podcast di Radio 24 e quindi trova tutto. La storia di Davide l'avevamo ospitata il 6 maggio del 2012. Dicevamo, Davide... tutta questa attenzione attorno alla vita in campagna, all'agricoltura, all'allevamento, secondo te in questi anni è un po' superficiale? È una moda che passerà oppure corrisponde a un qualcosa che tu senti intorno a te che sta crescendo? Ma secondo me sicuramente ci sarà un ritorno, perché da quello che vedo in giro, insomma, per anni è stata... lasciata pian pianino sempre più abbandonata, specialmente diciamo l'agricoltura nelle zone montane, nella nostra zona dove non è produttiva come la pianura, tutti si spostavano magari dove fare l'agricoltura, dove è un po' più produttiva o facevano altri lavori. Adesso pian pianino vedi un po' la crisi, vedi un po' che magari anche, non so, lo stile di vita delle industrie non... ormai bisogna essere è troppo frenetico, insomma. C'è sicuramente un ritorno all'agricoltura, ecco, ci sarà e secondo me è anche giusto che ci sia. E tu ne sei sicuramente uno dei precursori, uno degli antisegnani e comunque sicuramente uno dei rappresentanti. Davide Bortoluzzi, 25 anni, pastore della provincia di Belluno, Pastori 2.0, avevamo scritto, la storia è piaciuta, ti abbiamo ospitato per raccontare l'evoluzione della tua storia, adesso poi vedremo gli ascoltatori che hanno vinto, li premieremo. Davide, io ti saluto, insomma, è una bella giornata. Adesso tu esci dalla tua macchina, vai al vento e fino a che ora stai fuori, giusto per capirsi? Ma fino a che viene buio. Qui insomma, sono giornate lunghe. Ma fai tutto da solo? Oggi mi godo la bella giornata che domani ritorna la neve. E domani torna la neve? Così hanno detto. Ma fai tutto da solo? No, mi aiuta anche la mia ragazza. Ah, vabbè, dai, allora insomma va un po' meglio. Sì, è un po' più piacevole. Grazie! Grazie a voi! Buona giornata. Buona giornata. 800 24 00 24, Vincenzo ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia, benvenuto Vincenzo. Buongiorno a lei. Eccoci. Sì. Solo un'osservazione. Prego. Vengano gli ex poliziotti, ex agenda per aiutare le preture, però sì. Mi sa che il governo Berlusconi aveva investito molto sui computer da mettere nelle preture e nei tribunali, non ne fa uso nessuno, tranne che la pretura di Torino, dove Caselli hanno fatto un gran lavoro e sono avanti col lavoro. Lei come fa a sapere che non lo usa nessuno, lo usano solo a Torino? Magari non, sti fondi non so, non saranno arrivati, poi certo magari non bastano, non lo so. Lei ha delle notizie di primo piano, Vincenzo? Di prima mano, scusi. Come? No, le chiedevo come faceva lei a sapere che le usano solo a Torino i fondi per l'informatizzazione delle, della pratica. Hanno anche intervistato Caselli tante su volte, questo. Vabbè. Detto, Va bene, grazie Vincenzo, insomma è una sua telefonata di incoraggiamento. Certo, l'informatizzazione aiuta, però non è che si può fare tutto con i computer, poi qualcuno davanti ai computer ce lo dobbiamo mettere, perché non fanno tutto da soli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E vi ricordo anche i nostri contatti, si può fare Radio 24 su Facebook, si può fare 24 su Twitter, c'è anche la mail, si può fare a radio24.it. Voglio tranquillizzare chi ha partecipato anche oggi in massa, sì, possiamo dirlo, al concorso, mandando la mail di registrazione sul sito con l'SMS. Abbiamo preso nota di tutto, Poi già dalla settimana prossima direi che cominceranno ad arrivare le comunicazioni ai vincitori. Prima aspettiamo di essere almeno di aver scavalato la metà, erano quattro categorie quelle che avevamo promesso di premiare, ogni settimana, ogni sabato una premiazione, quindi andiamo avanti anche con i prossimi due sabati, si continua a poter votare per partecipare alla vittoria, che è quella di un soggiorno sostenibile offerto da EcoTube. Andate sul sito di EcoTube e vedete che tipo di vacanze interessante questa nuova offerta nel settore del turismo in Italia. Adesso abbiamo un altro ascoltatore all'800 24 00 24, vi abbiamo chiesto di commentare anche insomma, se questa può essere la legislatura che ce la può fare a cambiare un po' di cose, perché è vero che è tutto molto caotico, però abbiamo molti giovani, molte donne, abbiamo l'iniziativa contro la corruzione di Libera e del gruppo Abele, 300 parlamentari col braccialettino bianco, ce la facciamo stavolta? Speriamo. Maurizio da Rimini, buongiorno. Ciao, buongiorno. Avevo chiamato veramente per commentare l'affermazione che ha fatto poco fa il presidente della provincia di Lodi. Sì, sull'iniziativa dei tribunali. Sull'iniziativa, che è un'iniziativa bellissima, encomiabile, veramente. Su quello non c'è niente da dire, però non mi sta bene che assieme, specie ad un'iniziativa del genere, passi il messaggio che il problema della giustizia è un problema di personale. Assolutamente non c'entra niente, il problema della giustizia è un problema politico. È un problema politico legato al quadro legislativo che abbiamo in Italia, che è scandaloso, cioè alla situazione di un'infinità di leggi che sono spesso in contraddizione tra di loro. Mi scusi un attimo Maurizio, la faccio proseguire, vorrei sentire se possiamo avere l'audio di Sky dalla regia, perché è in corso lo spoglio della votazione alla Camera, vediamo se sentiamo qualche nome. Laura Boldrini. Mi pare Boldrini, che stiano Laura. Votando tutti per la Boldrini. E però allora, Laura Boldrini sicuramente. Questo Sky TG24, vediamo, non so se riusciamo a darla in tempo, se c'è la notizia dentro il. Si può fare, oppure basta rimanere collegati con il GR, perché questa sarebbe una notizia chiaramente importante. Maurizio, l'ho interrotta, lei stava dicendo che il problema è politico. Però sai, beh, io ho capito che il problema è politico, però io ho chiesto anche al presidente della provincia di Lodi, è politico fino al punto di fare manifestazioni davanti a Palazzo di Giustizia, oppure le cose a volte si risolvono anche con cose semplici tipo risorse, computer, personale amministrativo specializzato? Quello sicuramente genere. Ma quella è diciamo che è una battaglia di retroguardia, cioè nel senso che risolve un problema contingente, ma il problema vero dell'enormità dei processi, delle complicazioni che ci sono in ambito giudiziario, è perché abbiamo a che fare con un sistema di leggi che è impossibile, impenetrabile. È questo che bisogna aggredire. Ah sì, certo, lei dice c'è il problema, sì, chiaro, il problema delle troppe leggi troppo complesse, questo sì. Però, insomma, assieme a questo ci sta tutta un'operazione di dimagrimento dello Stato, cioè lo Stato non si può permettere. Guardi, io però ho avuto una volta una causa, Maurizio, sì. Ogni singola... Sì. situazione. Io ho avuto una volta sola una causa, ci hanno messo quasi 3 anni e non erano molto complesse le leggi che c'erano intorno, è proprio una questione a volte anche di efficienza. Comunque grazie per il suo contributo, Maurizio da Rimini. Adesso invece dove andiamo? Restiamo a Milano perché parliamo di Fa la cosa giusta. E noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può suonare, non si può sbagliare, perché? Perché ci vuole orecchio. Bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio. Ci vuole tutto l'orecchio di Camilla Masala. Buongiorno Camilla. Buongiorno a tutti, ciao Alessio. Per raccontarci ogni tanto le sue notizie insostenibili, le notizie sostenibili di Camilla, che è fondatrice di Pupulito, iniziativa a Novara, che cos'è? Una lavanderia per pannolini e pannolini lavabili, che tra l'altro stiamo lanciando anche a Milano proprio in questi giorni. Questa è una notizia. Io tra l'altro non ho ancora imparato a dirlo di cosa si tratta, perché no, scherzo, ho capito benissimo, però è una cosa nuova e insomma non è che tutti hanno a che fare con questa cosa qua. Oggi Camilla è a Fa la cosa giusta per presentare che cosa? La tua iniziativa, la tua lavanderia? Sì, in realtà io sono all'interno di un'altra realtà che si chiama Spazio Dar, che mi ospita proprio per lanciare il servizio anche ai bimbi di Milano, quindi sono contenta di questa cosa. No, ma sono contenta soprattutto di essere una reporter per voi, vera e propria oggi. E noi ci teniamo a questo. Per tutto io ricordo, allora, Fa la cosa giusta, 15-17 marzo, padiglione 2 e 4, Fiera Milano City, Viale Scarampo, abbiamo detto tutto. Cos'è? La Fiera del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili, più sostenibili di quello che fai tu, Camilla. Io dico che tu vuoi salvare il mondo dalla cacca, dalla plastica più che altro, che contiene plastica, la cacca. No, tra l'altro questa è la decima edizione della fiera, quindi, e anzi ogni anno sta diventando sempre più ricca e si vedono anche facce nuove, anche ecco, come tipologia di visitatore. Cioè non soltanto quello lì super ecologico, vestito con cose di cotone strano, eccetera, col cappello andino, ma anche gente normale. Quasi in giacca e cravatta, allora, usiamola così. Cioè una nicchia che prima o poi non sarà più una nicchia. Abbiamo poco tempo perché siamo in chiusura. Sì. Hai girovagato, curiosato, c'è qualcosa che ha colpito la tua attenzione lì intorno? Una cosa sicuramente che mi ha colpito è il fatto che ci siano molte iniziative che fanno tornare da adulti bambini e bambini che fanno diventare grandi. Io cioè come il Parlamento, per esempio, no? È un po' una cosa del genere. Attenzione, applauso alla Camera. Scusa, eletta Laura Boldrini. Un attimo solo. Arriva al termine di una puntata di trattative. Adesso questo è la cronista di Sky. Altrimenti, ecco, questo è l'applauso. Eletta Laura Boldrini, Presidente della Camera. Un primo punto l'abbiamo messo. Io poi non so se è un punto positivo, forse sì, lei non è una dei partiti, quindi avete visto che siamo partiti dicendo ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta. Camilla, in 20 secondi, ti ho interrotto, chiudi così. Due consigli: se venite in fiera con i bambini, fateli giocare, fateli diventare un attimo grandi, facendoli giocare e lavorare con tutti gli attrezzi da fare la falegnameria. C'è un laboratorio di falegnameria splendido dove si possono usare attrezzi veri, e questo è importantissimo. Oppure fatevi scrivere una filastrocca da un ragazzo che fa filastrocche e vive di questo. Io sono rimasta affascinata da queste due realtà. Quindi bambini che fanno i grandi che fanno i bimbi. Bella questa, bellissima, è il consiglio con cui ci salutiamo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, vi aspetto a fare la cosa giusta.